Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, guarda qua, sono le 8 e 16 minuti. Siamo in diretta. Come va? Sto bene? E somma. In che senso? E no, perché scusa, siamo in anticipo. Vabbè, allora facciamo due minuti di silenzio. No, questo non si può fare. No, non lo so, si può fare tutto, siamo padroni qui, no, siamo padroni, ci hanno dato il microfono, senti, Oscar. Ti senti padroni? No, no, per carità. Allora, oggi che santo è? Ti interessa che santo è? E come no? Ma è Santa Giuliana di Nicomedia, martire caduta sotto Massimiano, l'imperatore Massimiano, come sono caduti, decapitati, in questo caso sotto Massimiano, gli stessi santi che oggi festeggiamo in gruppo, per così dire, perché erano un gruppo di egizi poi convertiti, che nel 310 furono decapitati. Infatti presero tutti i nomi ebraici, cioè Geremia, Isaia, Samuele, Daniele. E oltre ai santi che così festeggiamo, Valentino Rossi oggi, auguri. San Valentino Rossi? No, per alcuni sì. E devo dire che anch'io, quando posso dirti una cosa, quando esordì i primi anni, lo stile di conduzione motociclistica di Valentino Rossi mi lasciò, come qualche tempo prima aveva fatto gli esordi quello di Mark Biaggi, totalmente ammutolito, perché si sfidavano le leggi della fisica sul baricentro e lo spostamento in velocità dei punti di caduta del corpo, e dissi: quest'uomo è una specie di talento naturale. Cioè, ci sono quei fenomeni, come avviene quando vedi per la prima volta da piccolo il tocco al piede sinistro di Maradona, che uno dice: vabbè, ma si siamo capisce, al di là della realtà. Capisce. Ecco, per alcuni sì, è un santo, anche Valentino Rossi. La risposta alla domanda è questa qua. Tra l'altro, Oscar, sai che a me ha molto colpito? Stanno arrivando tantissimi messaggi su Twitter, in rassegna stampa, eccetera. Quando ho letto lo sfogo anche molto doloroso di questa mamma Lavagna, che ha detto ai giovani, sto parlando di quella della mamma del ragazzo che si è suicidato per l'hashish, che ha detto ai giovani: non pensiate che la risoluzione sia la droga, non pensate che là fuori ci siano... insomma, siete talmente straordinari, ricchi di talento, ricchi di straordinarietà, fatele emergere queste straordinarietà, no? E moltissimi invece si concentrano sul fatto che lei ha chiamato finanza. I finanzieri, quindi è stata lei, quindi è colpa sua, quindi... Ma per carità, cioè, ma sappiamo che ormai i leoni da tastiera giudicano in due secondi i comportamenti delle persone, no? Sì, perché c'è un cattiveria diffusa, facilità diffusa con cui esprimere giudizi. No, non lo so, cioè dare un giudizio e dire quindi ha chiamato i finanzieri, quindi è stata lei, voglio dire, ad allertare. Era preoccupata perché il figlio fumava gli spinelli, penso che sia una preoccupazione legittima. Anzi, dalle descrizioni era proprio disperata, non è che voglio dire di fronte al primo avviso, per così dire, esatto. Che fa, se ne frega, chiama, no? Cioè, dicendo, dopo aver parlato a lungo col figlio, non sapevo più cosa fare, mi sono rivolto ai finanzieri. Vogliamo incolparla e dire per questo è morto il figlio, eccetera. Fatelo pure, io non me la sento, ecco. No, perché già ieri era partito il treno, io che voglio dire, non sono sospettabile, certo, di essere uno che il corpo della finanza ama molto, per quello che dico, ma dico sulle tasse. Però già ieri era partito, e non sono d'accordo, neanche ieri ero d'accordo, sul treno, a colpa la finanza, debole coi forte, forte coi deboli, che fa le irruzioni in casa, sui minorenni che si buttano alla finestra. E già era partita quella. Oggi si è modificata, come dici tu, ma in realtà, come vedi, poi il refrain è lo stesso, no? Invece bisognerebbe, un secondo, quando vengono soprattutto riflettere, cari, no? Riflettere. Vedi subito, Milan, quella mamma ha sbagliato. Un ascoltatore, perché l'hashish non dà dipendenza, ho fumato per 40 anni, bla bla bla bla. No, io questo puntare l'indice, dire ha sbagliato, poi di confronto di una persona che poi ha perso il figlio, insomma. ma un attimo un po' più di rispetto. Tutti anche eretti solo per in gente. Permanente appartenenza a corti d'assise. No? Questo, beh, ma il resto lo sai però che è una regola. Facciamo il nostro mestiere, lo si vede ogni 5 minuti che la regola dei social è questa, che ha portato a forme sempre più radicali, no? Di esercizio della voice, dell'opinione. Bisogna sapere che è così. Il nostro compito è quello di dire, riflettete, le parole ieri della madre alla cerimonia di fronte a tutti i giovani, secondo me hanno espresso con un raro equilibrio la sua disperazione e il messaggio anche ai coetanei del ragazzo, un messaggio positivo, cioè era una donna, una mamma addolorata, su, lo rispettiamo. Esatto. Non so chi ha figli, come fa a parlare così, almeno questo esatto. È il mio commento. No, ma questo è anche il mio pensiero. Comunque diamo il numero di telefono se volete parlare di tutto, come sapete 800 24 00 24. Caro Oscar, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare oggi? Vedi che... devo dire che ci sono una batteria di articoli e prediche inutili in eudiane, per quello che mi ricordo, per quello che mi riguarda, no? Perché e per questo ancora più sacrosante, perché l'articolo editoriale del Corriere della Sera, quello di Dario De Vico, che dice sempre più emergono nel partito di governo, nella maggioranza, i nostalgici del dire torniamo alla spesa, torniamo alle tasse, ed è vero, cioè ci sono membri del governo Renzi che oramai il cui fine prioritario quasi ogni giorno sembra quello di criticare a Padoan, che rimane a occhi sbarrati nel sentirli. Abbiamo avuto anche qui, no? Uno, Fanucci, che ha detto la mozione non aumentate le tasse. Sì, beh, esatto, non aumentate le tasse, e quindi dice l'Italia certo non ripartirà se tornate a fare più spese e più tasse. Bravo Dario De Vico, idem su Quella Sera. Lorenzo Binismaghi che dice, beh, la colpa della mancata crescita, caro dibattito pubblico italiano fatto di opinionisti, politici di destra, sinistra, di tutte le parti, non si deve certo all'Unione Europea e all'euro, quindi state prendendo tutti un indirizzo che vi porterà a sbattere. Prediche inutili però, perché io sono convinto che purtroppo l'aria sia esattamente l'opposto. Mentre ti ha colpito la puntata numero 7844 della scissione del PD? No, il titolo di oggi è La scissione dietro l'angolo. La scissione dietro l'angolo. Beh, l'intervista di Michele Emiliano Repubblica, sì, è muscolare, sì, abbastanza però, pugilistica. Insomma, ogni giorno insomma diamo spunto a queste decine e decine di movimenti, poi lievi movimenti un po' a sinistra, un po' a destra. Però, un po'... ormai, dai toni di oggi sembra che è tutto fatto, deciso, siamo già mollati. Anzi, forse ripartirà già la riconciliazione. Come... Chi lo sa. Sai che Oscar, però vogliamo parlare un pochino anche di scuola, perché c'è questa notizia, pare che ci sia stato un dibattito all'interno del Consiglio dei Ministri sul fatto se sia giusto o meno bocciare alle elementari. Bocciare alle elementari. Io l'idea, sinceramente, un figlio, un bambino di 8 anni o di 7 anni bocciato alle elementari, un pochino mi rimane. No. Dura da buttare giù. Cioè, ma no, anche solo da considerare come ipotesi. Insomma, fa un po' senso. Cioè, a meno di gravi inadempienze, che cavolo. Posso farti una domanda? Quando andavi alle elementari tu, che sei molto giovane, quindi da pochissimo. Capitato? Ti ricordi qualcuno? No, ricordo però che per le troppe assenze, perché io scappavo da scuola come Pinocchio, fu chiamata mia mamma e mio papà a dire un altro giorno d'assenza e siamo costretti a fargli ripetere l'anno per il numero di assenze. Sì. Ma parlavo di te, non ci credo. Sì. Sei così compito. No, scappavo come Pinocchio. Allora, e quindi da quel momento non ho più fatto assenze. Io nel mio ricordo molto vivido, nel mio quartiere di periferia operaia a Torino, i bocciati alla scuola elementare, Giovanni Vidari, c'erano. Che ancora lì, c'erano come, anzi... Ma bocciati per cosa? Anzi, c'erano dei pluriripetenti, che è uno dei ricordi più duri di quando io ero così piccolo, perché individuavano agli occhi di tutti quanti noi, che venivamo da contesti sociali e regionali molto diversi, all'epoca gli immigrati erano ancora gli italiani tra loro, per capirci, nord e sud, e questi pluriripetenti significa che c'era gente che in quinta elementare aveva 14 anni, per dirte, erano, come devo dire, i derasinè, gli esclusi, cioè c'erano quelli delle classi differenziali, perché c'erano le classi differenziali, altro che gli insegnanti di sostegno all'epoca. Ecco, io sono cresciuto in un'Italia che era ancora così, si bocciava e come. Si bocciava. In generale, appartenenti a famiglie che avevano comportamenti devianti, e di fronte ai quali la scuola sapeva solo dire non so cosa dirti se non stangarti e farti rifare l'anno. Non so, vogliamo chiedere al al nostro collega, perché è anche un giornalista, scrive sul Fatto Quotidiano, scrive libri di scuola, è insegnante, Alex Corlazzoli. Buongiorno Alex. Eccoci qua, buongiorno a te, a Oscar. Insegnante, insegnante tra l'altro di scuola elementare, o sbaglio? Esatto, quindi, proprio di scuola primaria, esatto. Sì, scusa, io la chiamo ancora elementare, per me è la scuola elementare. Primaria. Di imparare, sai, a chiamare questa primaria e l'altra scuola dell'infanzia, perché anche i politici la chiamano ancora scuola materna, sì, no? Invece è scuola dell'infanzia. Pensa che io la chiamo l'asilo, l'asilo. L'asilo, le elementari, le medie. Io penso che invece per far incazzare mia moglie la chiamo scuola paterna. Paterna. Lei invece... Vabbè, non è male. Allora, Alex, quanti ne hai bocciati tu alle elementari? Quanti ne bocceresti alle primarie? Mai uno bocciato e anzi bloccato almeno due o tre bocciature. Eccolo. In modo particolare ho bloccato una bocciatura di una bambina a Rom qualche anno fa e la bocciatura di una bambina... invece figlia di genitori meridionali trasferiti al nord con disagi sociali più disparati, almeno due insomma sono certo di averne bloccate. Ma le ho bloccate, guarda, perché fondamentalmente la scuola, se anche avesse bocciato questi ragazzini, l'indomani, anzi l'anno dopo, non avrebbe dato nessuna risorsa, non sarebbe cambiato assolutamente niente per loro. Il senso della bocciatura può averlo, semmai, se la scuola poi è in grado di recuperare questi ragazzi, se è in grado veramente di curare questi ragazzi. Sai, io quando parlo di queste cose faccio sempre dei riferimenti pedagogici, vado a cercare in quei pochi studi che ho fatto, vado a tirare il cassettino per vedere qualche riferimento pedagogico, perché altrimenti non posso pensare che oggi la Giannini la pensa così e domani la Fedeli la pensa in un altro modo e si cambia l'Italia in base a come la pensa una ministra. Il mio riferimento pedagogico è Don Lorenzo Milani. Lo stavo citando io, Don Milani, no? Quello allora, che la scuola deve includere, non deve escludere. Lui diceva, è un ospedale, la scuola, diceva, se si perdono loro, diceva gli ultimi, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Io voglio curare i malati. Io avevo l'anno scorso un ragazzino che non ci cavava nulla proprio, per un anno veramente, ho fatto un anno a curare questo ragazzino e credetemi, oggi che è invece in quinta elementare, questo ragazzino ha 9, ha 9. Per i parametri della scuola avrei dovuto bocciarlo lo scorso anno, ma invece l'ho preso in cura. Questo è il passaggio fondamentale che noi dobbiamo fare. Caro Oscar, qua... No, ma io mi auguro, io sono troppo vecchio. Nella scuola cui frequentavo io, cui mi ritrovo, le ragioni possono essere diverse, non era un mondo di migrazioni internazionali, però il disagio e il ritardo si devono quasi sempre poi alla stessa ragione, no? Basso reddito, difficoltà nelle dotazioni culturali, nel capitale umano di base, forti sirene di chi fin da piccolissimo lavora e viene da un ambiente in cui neanche la scuola dell'obbligo è considerata fondamentale, però le ragioni sono sempre le stesse. Nella mia esperienza di allora... non c'era proprio la possibilità, che spero sia cancellata dalla realtà della scuola italiana, però non lo so, chiedo al nostro ospite, non c'era proprio la possibilità che qualcuno, tra virgolette, curasse, come ci hai appena spiegato, nel senso che venivano buttati in queste classi differenziali che rappresentavano agli occhi di noi bambini già l'anticamera certa di quello che a Torino si chiamava il Ferrante a Porti, cioè l'istituto, certo, di correzione minorile, certo. Esattamente. Allora, c'è adesso questa diffusa capacità e ci sono le risorse per mettersi, che sono psicologiche, che sono culturali, oltre che finanziarie, per mettersi a curare questi bambini? Perché altrimenti io veramente non ho una risposta a questa domanda, perché io ne ho un ricordo tragico, proprio tragico, perché tra noi ne parlavamo a bassa voce, che è proprio il crisma della differenziazione sociale sin dall'inizio, il senso del vissuto, della percezione, l'impossibilità di farcela nella vita. Ecco, nella mia scuola elementare queste cose erano traumaticamente evidenti a noi tutti. Hai detto bene proprio, Oscar, poco poi citando il Ferrante a Porti, l'altro giorno incontravo l'insegnante, il mio collega maestro del Ferrante a Porti, sabato scorso a Torino, e mi diceva proprio più ragazzini arrivano da noi, più la scuola ha fallito. Pian piano il metro di misura è proprio quello, mi diceva Mario, proprio maestro del Serrante a Porti. Oggi la scuola, per risponderti, voglio essere estremamente oggettivo, avrebbe questi strumenti. Utilizzo questo verbo, avrebbe questi strumenti. Non sempre, purtroppo, gli insegnanti hanno invece i riferimenti pedagogici che gli permettono di utilizzarli. Cioè non sempre trovi un maestro che si prende cura del ragazzino, ma è più facile, utilizzando lo strumento della bocciatura, dire va bene, sì, vattene dalla mia classe, e l'anno dopo neanche si preoccupa di sapere dove è andato a finire, neanche va a chiedere. Però, Alex, la questione, molti ci scrivono, insomma, la questione, la scuola deve sicuramente includere, deve curare, per usare il termine che hai usato tu, deve anche giudicare, voglio dire, deve nel giudicare selezionare, secondo me, selezionare i migliori per in un metodo meritocratico dare ai migliori più opportunità, ma non per come dire mettere i peggiori da parte, per aiutarli, però per anche premiare i migliori. Allora, questo... Chi sono? Hai ragione. No, dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista della cultura, dal punto di vista dell'impegno scolastico, no? Poiché alle medie il problema ci sarà. Alle superiori, quel bambino che hai fatto, quella bambina che non hai fatto bocciare, poi si ritroverà di fronte prima o poi qualcuno che lo giudica per quello che è in grado di dare, no? Certamente, certamente. Però facciamo una riflessione, intanto. Nell'ultimo anno, nel 2015-2016, sono stati bocciati 11.071 ragazzi. Ma dove? A secondaria? Dove? No, in alla scuola elementare, per utilizzare il termine che piace a noi, perché abbiamo fatto elementari tutti e tre. All'elementare, l'anno prima 11.866. Sono tanti. Quindi non si tratta di casi eccezionali, ma di tanti bambini. Ora, io ieri ho chiesto all'onorevole Carocci, che è relatrice della legge delega, ma abbiamo un'analisi qualitativa di chi sono questi ragazzini qua? E la risposta è: non abbiamo l'analisi qualitativa, non sappiamo chi sono questi 11.071. Allora, il passaggio successivo è: sono, per quello che ne possiamo sapere noi, per quanto si dice, per esempio, una preside come quella dell'Istituto Comprensivo Falconello Zen, per quello che ci dicono queste persone, sono stranieri, ragazzi delle regioni meridionali, perché è una percentuale, la percentuale più alta dei bocciati è in Calabria e Sicilia, e sono Rom. Ora, di fronte a questi ragazzi, non c'è una selezione, ma c'è semmai Alberto Manzi che mi dice con quel timbro: fa quel che può, quel che non può non fa. Non diventeranno tutti Oscar Giannino e Alessandro Milan, ma in qualche modo io devo tirar fuori il meglio anche di quell'ultimo, affinché possa nella società essere, in qualche modo, trovare un suo ruolo. Non devo escluderlo, bocciarlo, lasciarlo fuori. Devo sicuramente utilizzare un parametro diverso tra Giannino, che è il più bravo della classe, e Corlazzoli, che è l'ultimo della classe, ma sicuramente senza far pesare questa etichetta di ultimo, ma facendolo sentire al centro dell'attenzione. No, io so solo che, secondo me, se avessi trovato un Alex Corlazzoli in prima elementare non sarei scappato come Pinocchio, come facevo. Non lo so, penso. Ma io, per esempio, posso dirti, anch'io penso che l'incontro con l'insegnante di prima e seconda elementare, maestra Bader, per quello che mi riguarda, tedesca, il cognome, figurati un po', non solo il cognome, mi ha cambiato la vita, perché la possibilità di perdersi dove sono nato io, il ruolo è fondamentale, era fortissima. Il ruolo è fondamentale. Cioè, purtroppo il mio primo morto ammazzato venne all'oratorio quando io facevo ancora la scuola elementare, ed era uno di quei ripetenti che ti ho detto di aver accoltellato. Pensa un po', ecco, ma io mi vergogno a dirlo, la realtà in cui sono cresciuto era ancora quella. Guarda che ci chiama Oscar. Mariano da Benevento, buongiorno. Mariano, pronto? Eccoci, Mariano. Salve, buongiorno. Io volevo solo portare una mia piccola esperienza. Io ho quattro bambini, tutti e quattro adottati, tutti sono quattro fratelli, fanno prima, seconda, terza e quarta elementare. E sostanzialmente io quello che vedo, solidarietà, perché significa essere molto impegnativa questa cosa, visto no, era solo per inquadrare la questione, diciamo, che è abbastanza articolata. Però il problema di fondo che io vedo nella scuola è che si parla di non bocciare, ma in realtà già oggi i voti che esistono sono 8, 9, 10. Cioè, io non riesco a capire perché, e io mi sono battuto per far abbassare i voti, non per farli alzare. Certo. Cioè, io vedo quattro. Cioè, vede troppo buonismo, Mariano. Vede troppo buonismo, ecco, diciamo. Cioè, nel senso, non c'è severità. Io non è che cerco la scuola di una volta severa con la bacchetta, io il maestro con la bacchetta, eccetera. Però, secondo me, se stiamo rischiando di crescere una generazione che sarà impreparata alla durezza del mondo. Io ai miei figli gli dico: se voi non avete un bagaglio di conoscenze e di impegno, e voi andrete un domani e andrete a sbattere. Vediamo, le risponde il maestro elementare Alex Corlazzoli: stai crescendo una generazione di smidollati, traduco io. Smidollati che chiederanno più Stato. Smidollati, sdraiati, di tutto di più, sì. Si dice dei nostri giovani. Sì. Vabbè, c'è un elenco grandissimo proprio. Ma guardate, riflettevo ieri, proprio, sono andato a cercare l'etimologia della parola sacrificio. Mm-hmm. Perché ho questo vizio che mi hanno insegnato al liceo, di la verità, di andare, l'ho capito più tardi, al liceo sì. Ero scarsissimo, poi ho capito l'importanza dell'etimologia delle parole. Sacrificio è fare il sacro. Esatto. Noi abbiamo questa idea invece di far fare il sacrificio come una punizione, no, ai nostri ragazzi. Dovete fare sacrifici, dovete fare... Attenzione, che noi li mettiamo in quest'ottica. Io ho dei ragazzini che mi dicono: maestro, io non andrò mai all'università. Me lo dicono alla scuola primaria. Perché vengono da una scuola chiaramente che è solo fatica, che è solo sacrificio, inteso nell'accezione negativa. Cioè, come dire, prima finisco meglio è. Io invece devo fare in modo che la scuola sia sicuramente un ambiente, come diceva Mariano, sicuramente dove imparare, dove crescere, dove avere sicuramente gli elementi, le conoscenze, le competenze, ma devono i ragazzini, io li voglio vedere a scuola sorridenti, mm-hmm. voglio vedere a scuola che vengono con piacere, voglio vedere almeno qualche lezione che abbiano il sorriso. Sono stanco dei ragazzi che abbiamo in Italia, l'università con il più basso numero di iscritti. Ma perché? Perché fin dalla scuola dell'infanzia, fin dalla scuola primaria, sì, scuola non li entusiasmiamo per la scuola. È chiaro, anche mia figlia, insomma, il venerdì si sveglia e dice: ah, è venerdì. Questo devo dire, gliel'ho un po' contagiata. Va bene, dai, ti ringraziamo Alex Corlazzoli, vai in classe, insomma, perché è il momento, ti tocca. E felice ci vado. Certo, e se sei felice tu, è il primo passo per far essere felici gli allievi, poi questo... Infatti io tento di spiegare, per esempio, a Margherita, che noi abbiamo un compito per rendere la scuola esattamente come ci diceva Alex adesso, più seducente, più divertente per i nostri figli. Bisogna a casa far regnare il terrore, perché così vanno, felici. Guarda che Alex, per esempio, punta sempre molto anche sull'arredamento, i muri colorati invece che questi muri grigi, bigi, bianchi, scrostati, i colori, l'arredo. Muri nelle case con i bambini devono essere molto variegati, cioè le pareti con queste strisce con bianche, nere, come le sbarre delle gabbie, bianche, nere. Già, bianche e nere, sai che... lo so, ma anche a me, e per cui non so se hai capito, se vuoi rappresentare il terrore, sbarre come nello zoo e poi bianche e nere, massimo terrore, viva la scuola papà. Viva allora, la scuola. Facciamo 2 minuti di pubblicità, poi andiamo dai tanti ascoltatori che ci chiamano, guarda anche sulla mamma di lavagna, ci chiamano. C'era da immaginare. Lo so, tra poco, state con noi. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci Oscar, 8:42 minuti. Eccoci tornati. Allora, ci chiama Carlo da Padova, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, niente, io volevo intanto esprimere la mia solidarietà a quella signora che sta vivendo con la famiglia un dramma terribile. A Lavagna, lei parla di Lavagna, cioè sì, della, della si madre. È suicidato questo ragazzo. Perfetto. Di 16 anni. Sì. Ecco, questa è una cosa che è ovvio, penso che qualsiasi essere umano lo possa capire. Certo. Però vorrei fare una considerazione. Quella signora è stata indotta dallo Stato, dalle istituzioni e anche da chi fa informazioni a pensare che al figlio fosse capitato una cosa terribile. E invece di pensare di aiutare quel figlio, perché non ci sono le istituzioni che le possano aiutare, psicologi, la scuola, qualcuno, ha pensato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Perché purtroppo il messaggio che passa, che fanno passare i proibizionisti, è che l'ASIS, queste cose qui sono terribili, sono il primo passo verso l'inferno. Non è così. Però Carlo, noi non sappiamo, quella signora ha detto di avere parlato in tutti i modi al ragazzo, di aver detto: o smetti di andare a calcio finché non smetti di farti gli spinelli. E poi... così stando alle sue parole, disperata, non sapendo più come fare. Esattamente, esattamente. Come voleva forse stroncare, è andata alla Guardia di Finanza, lo spaccio fuori dalla scuola, perché diceva era in mano agli spacciatori. E infatti i finanzieri sono andati alla scuola prima a fermare lo spaccio. Però lei capisce che intanto questa guida non funziona, avrebbe dovuto fare la scuola e doveva rivolgersi agli organi scolastici, mi sembrava la cosa più ovvia. Secondo, le ripeto, per fermare gli spacciatori sono le forze dell'ordine, non è che certo, ma ci si rivolge alla scuola e la scuola dovrebbe intervenire, perché lì stiamo parlando di superiori, si può fare informazione, si può fare un'azione non di tipo repressivo. Quando noi pensiamo che la repressione o la punizione è quella che risolve il problema, mi spiace, ma questo può essere l'esito, lo capisce? Allora, io non posso accusare questa signora di aver agito in maniera negativa. Un po' lo sta facendo. No, no, assolutamente, perché questa signora è stata indotta ad assumere un comportamento che per il figlio è stato lesivo dall'informazione e da una logica che pensa che... Che la repressione sia la soluzione. Esattamente. È stato chiaro, Carlo, per dare, e che le droghe sono quelle l'hashish di indipendenza, per dare spazio. Però, a Carlo, tutti. Guarda, io sono antiproibizionista di cultura, ho fatto tutte le battaglie insieme ai radicali sul fumo. Cioè, però, quando leggo, io, queste sono le parole testuali della madre ieri, l'ho voluto prendere a posto. Lei ai ragazzi ieri, durante la cerimonia, dice: avevo provato con ogni mezzo a combattere la guerra e l'avevo persa. Allora, io naturalmente, come lei immagino, noi non possiamo imporre la nostra prima degli altri, però di fronte alle parole della madre che dice: io non è che ho fatto la prima cosa, sapete che c'è? Finanza, vieni a risolvermi il problema, esatto, perché non voglio parlare con mio figlio. Non voglio occuparmene. Quindi, no, ecco, non lo so se veramente sia stata, per così dire, prevaricata, pur essendo io uno critico alla cultura del proibizionismo. Non sappiamo cosa ha provato a fare fino a quel momento anche col film. Mi limito anch'io a dire questo. Francesco da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma veramente prendo spunto dall'ultima telefonata, perché io ho lo stesso problema in famiglia e ho fatto lo stesso pensiero della signora. Cioè, ha un problema, nel senso, ha un figlio... Io ho un figlio dove le ho provate di tutte, ma la sera, solo la sera, lui si fa una canna. E io, che non fumo, che ho fatto, e anche mia moglie non ha mai fumato, abbiamo combattuto questa male abitudine, questa cattiva abitudine, ma le abbiamo provate tutte. Ma la cosa assurda è che io ho fatto lo stesso pensiero in maniera diversa della signora. Io avevo pensato di contattare un amico mio in polizia e dico: una sera fai un'irruzione a casa così e tutto il resto, e vedi un attimo se riusciamo a fargli mettere paura, perché mio figlio su questo potrebbe avere paura, prende uno shock, voglio dire, e accade quello che speriamo. E invece dopo quello che è successo... Bravo Alessandro. Io dico, io sto male per questa signora, perché io ho fatto lo stesso pensiero della signora. Cioè, quando un genitore arriva a vedere, per l'amor di Dio, io non ho... Cioè, mio figlio è una persona normalissima come era il ragazzo di 16 anni, però noi genitori forse non ci accorgiamo della fragilità di questi ragazzi e pensiamo di agire come se fossimo noi, perché io mi sento forte. Questi ragazzi veramente sono delle porcellane di Capodimonte, basta, belli, molto belli, ma basta toccarli e si rompono in una maniera allucinante. Li vedete che sono forti in famiglia e deboli fuori. Noi della generazione anni 60, noi eravamo forti fuori e deboli in famiglia, era così il discorso. Sì. E quindi io, questa signora, mi sento solo di abbracciarla e dirle grazie, perché meno male che io non ho fatto la scelta. Vabbè, Francesco, a cui però avevi pensato, chiaro che però dopo questa cosa uno ci pensa mille volte, anche se poi le storie sono tutte diverse, però capisci, anche Francesco ci dice: io non fumo, mia moglie non fuma, è il comportamento disdicevole, ma non sappiamo assolutamente come interrompere questa cosa, non è facile. Allora, tra l'altro, Oscar, noi abbiamo chiamato anche un altro ospite per parlare di terremoto, ricostruzione. In Emilia, però, in questo caso, in Emilia, purtroppo tutti però, i terremoti sono uguali. A maggior ragione, visto che, come hai visto, sul giornale di oggi c'è la stima fatta, la prima stima della Protezione Civile, la primissima stima dei danni strutturali, nonché degli interventi di emergenza fin qui operati da agosto, ottobre, nell'ondata del terremoto, eccetera, eccetera, e siamo già a 23 miliardi di euro e mezzo. Ma tu credi a questa cifra? Perché sai che qualche maligno dice, ma insomma, qualche maligno, però, è una cifra, come dire, Unione Europea... Sì. Avete capito la cifra quant'è? Vabbè, sappiamo come Renzi ha utilizzato questa roba. Però già siamo a un ordine di grandezza e le stime sono ben lungi dall'essere compiute ancora in tutta l'area, che come seconda entità di danni solo dopo quella del Pini. Sì. Quindi qui si arriva ai 40 miliardi, però secondo me. Ci ha colpito anche perché ad esempio a Mirandola, insomma nelle zone colpite anche dell'Emilia, è uscita la notizia, che ci ha mandato anche un ascoltatore, tra l'altro, sì, di alcune centinaia di ruderi ricostruiti 100. Con documenti falsi per ottenere i fondi del terremoto. Cioè, il paese dei furbetti, i fondi, no? Allora è nato un comitato spontaneo di verifica dell'erogazione di questi fondi. Ne fa parte, tra gli altri, un consigliere comunale di Cento, in provincia di Ferrara, Marco Mattarelli, che è con noi. Buongiorno, Mattarelli, grazie. Buongiorno. Di essere con noi. Quanti siete intanto in questo comitato e perché nasce, da che esigenza nasce questo comitato? Non vi fidate? Ma dunque, nel comitato adesso siamo già in 8, spontanei. È nato un po' così, una riflessione comune che abbiamo fatto su una mia spinta, nel senso che c'erano già persone che avevano fatto esposti, 32 nel caso di Sant'Agostino, di uno dei membri del comitato, alla Procura della Repubblica. Altri esponenti del comitato, un altro esponente del comitato, ex sindaco, ex amministratore pubblico, decine di foto messe in internet su ricostruzioni, diciamo, sospette. Fatte in un modo un po', diciamo così, da destare curiosità, perché fabbricati che erano distrutti già prima del terremoto diventano improvvisamente fabbricati... Cioè, perché i furbetti ci sono sempre, i furbetti, ecco, che si approfittano. Allora ci siamo trovati queste 7-8 persone, tutti non più giovanissimi, amministratori pubblici, come nel mio caso, ex amministratori pubblici, semplici danneggiati dal terremoto, gente che ha comunque fatto comitati anche in precedenza per difendere, non so, il territorio dall'abuso di utilizzo di rifiuti sul territorio, eccetera, eccetera. Un'altra battaglia che abbiamo compiuto insieme. E abbiamo deciso di fare questo CVR, Comitato Verifica e Ricostruzione, sì, sì, che molto probabilmente prenderà anche un aspetto giuridico legale, che ne so, forse un'associazione, ma io sono contrario a quello, lo ritengo più una cosa spontanea. Mi piace più per controllare, spontanee. Per controllare. E abbiamo semplicemente detto, adesso noi ci siamo rotti, ci siamo stancati di segnalare, cominceremo a fare delle cose effettive. Io sono andato dall'architetto capo del comune di Cento, e dico, guardate, io sono consigliere comunale eletto dal popolo, quindi pubblico ufficiale nella mia veste di consigliere, le verrò a chiedere dei documenti relativi alle ricostruzioni, al MUDI e poi in caso farà denuncia e nel caso, allora cosa ha fatto l'architetto capo? Ha detto, buongiorno, io le dico però che se lei viene come consigliere comunale i dati che lei riceve sono soggetti a riservatezza. Riservatezza. Che riservatezza, la trasparenza deve essere una cosa. E perché c'è questa cosa della riservatezza? Ma io non lo so, perché noi siamo in un paese comunista, scusi se glielo dico così molto chiaramente. E qui ormai abbiamo non so neanche di che partito è lei, non gli abbiamo chiesto. No, io sono stato un liberale dei vecchi liberali. Qui Oscar Giannino, allora sono ricresciuti tutti i capelli. Ma no, ma il signore mi pare di conoscerlo, quindi perché io andavo spesso a fontare molto da quella parte. Quindi vabbè. Quindi purtroppo adesso noi siamo in un paese ormai che ha la deriva più completa, fallito moralmente, economicamente, probabilmente saccheggiato da delle bande, però a parte queste lucubrazioni politiche, noi abbiamo un obiettivo ben preciso, portare di fronte alla magistratura i casi. Le eventuali carte di casi che noi riteniamo documentalmente... Ma secondo me fate bene anche perché, Oscar, cosa c'è di più odioso di chi, speculando su un terremoto, si mette a posto un capannone, un rudere, un edificio che era distrutto, prendendosi fondi pubblici e sottraendoli a chi ne ha bisogno? Soprattutto laddove ci siamo tutti impegnati, perché c'era come al solito anche lì i ritardi nell'erogazione, eccetera, eccetera. Lo so, cosa vuoi che ti dica? Però riflettiamo su una cosa. quanto di questo, che è un costume diffuso negli italiani, e questa è la ragione per cui i politici sull'Irpinia ci hanno fatto affari per decenni, moltiplicando per 20 l'area inizialmente descritta come colpita dal sisma. Questo è, i partiti ci hanno fatto i voti, ma tutti si sono abbeverati. Però quanto di questo viene dal fatto che la politica nei decenni, espandendo così incondizionatamente, incontrollatamente la spesa pubblica, ha dato l'idea alla gente: signori, c'è una greppia non solo per noi, ma per voi tutti, venite. Io sono convinto che questo nel tempo ha sedimentato questa cattiva abitudine in così tanti italiani. Cattivo esempio dall'alto. Beh, io in questo la penso come il nostro amico il Mattarelli. Consigliere Mattarelli da Cento, sì, Ferrara, ex liberale, credo che abbia detto proprio questo. Esattamente, cioè, sono molto d'accordo. Cioè, per dirla, adesso, sui giornali di oggi, tutti i giornali trovano, a scorrerli attentamente, la notizia che l'Inps è in rosso sia nel conto economico, sì, che nel conto patrimoniale. Aiuto, naturalmente bisogna dire a chi ci ascolta, tranquilli, come dice Boeri, tanto lo Stato garantisce qualunque perdita, però noi lo sappiamo che cos'è che ha generato questa perdita del 2012, cioè il fatto di aver assorbito nell'Inps la gestione dei pensionati pubblici, dove lo Stato per decenni i contributi non li ha pagati, e il solo fondo, pensate, dei dipendenti pubblici di INPTAP è in squilibrio per quasi 30 miliardi di euro l'anno. Questo per dare un'idea. Quindi, come vedi, la politica di responsabilità ne ha sulle spalle, se ne ha. Come no? Ecco perché gli italiani poi pensano: dice, un po', se sono furbi loro, faccio il furbo anch'io. Ecco, io non volevo dirla così, ma hai ragione a dirla così. Per tradurla in maniera brutale. Allora, con Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, molto contenti perché ci sono sempre più ascolti e noi siamo felici per voi. Ah, è vero, ci sono sempre. Così pare, così io pare. Non so niente. Così pare, qualcuno. Così pare. Ma comunque io sentirò le Zeppelin. Ci diamo appuntamento dopo Bob Marley. A domani. Bravo.